in uso, ma è già da sposa. Pomodori Pachino e dei datterini. O i datterini, scusate, ho sbagliato varietà. Dei datterini. Datterino. Il mio primo mestiere è stato dove mia madre mi faceva fare i caffè per la famiglia e quel... E tu facevi svolazzare le tazzine così, proprio come un trapezista? Non proprio così, perché ne ho rotti veramente tanti, quindi abbiamo iniziato comunque... Perché lo scappellotto arrivava, quindi sai, e lì non c'era niente di acrobatico. È un capo datterino. Mia moglie, che ormai mi prende in giro, mi dice: ormai sei compagno di Attilio, va bene. Ormai basta, hai fatto le tue scelte. Come Nicoletta quando dice a suo marito: da quando sto con Deborah nella trasmissione, non le dico cosa non succede in quella casa. Intrecci pericolosi. Volevano metterci anche in foodie le nostre due faccine, è aggiungere, sì. E però noi abbiamo detto no, dai, no, non c'era però... un ortaggio che ci rappresentava a sufficienza, o direi. Sì, o forse sì, ma non volevano dirlo. Causa del complotto e causa della lotta. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maccherone, m'hai provocato, io me ne magno. Cuore e denari Expo. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà. Eccoci pronti per una nuova puntata di Cuore Denari Expo, il reality di Cuore Denari che traduce in esperienza quotidiana le sfide di Expo. Siete sedentari, sportivi, stressati? Avete figli piccoli, ne state aspettando uno, oppure siete over 50 o conviventi? Come sapete, abbiamo selezionato 8 profili e per ciascuno abbiamo individuato una coppia di coach, un medico e un cuoco, pronti ad accompagnare il nostro candidato in un percorso di cambiamento in stile Expo. E devo dire che questa nostra operazione è molto apprezzata dai nostri amici, dai nostri ascoltatori che ci stanno sostenendo ed incoraggiando in questa nuova avventura, che noi consideriamo un buon investimento per il cuore ma anche per i denari. Infatti cercheremo non solo di farvi mangiare meglio, di riconquistare la forma fisica, ma anche di farvi spendere meno o meglio. Continuate quindi a seguirci, candidatevi a diventare il capofila della categoria, della tribù alimentare che più vi rappresenta, oppure seguite i vostri beniamini sulle pagine di Cuore Denari Expo. Oggi è la volta dei conviventi senza figli. Il dottor Speciani non c'è con noi, ma ha lavorato lo stesso, e quindi andiamo a sentire cosa ci raccontano i questionari di questa categoria. Bisogna dire subito che intanto hanno risposto più le donne all'interno della coppia che non gli uomini, 71% delle donne, però abbiamo sicuramente la rappresentanza più giovane, un'età media di circa 39 anni, e quindi una situazione positiva. In questo momento tengono assolutamente il livello di essere i primi tra tutti i questionari che abbiamo analizzato fino ad oggi. Abbiamo sempre la rivincita della campagna, in quanto le grandi città sono un po' relegate, mentre abbiamo città di provincia e paesi che rispondono in maniera sicuramente dominante. Ovviamente, ma questo è nell'esistenza del questionario stesso, nessuno di loro vive solo, però fanno un mucchio di cose insieme. Andiamo un po' ad analizzare quello che avviene. Ad esempio, dormono spesso insieme, che è un buon segno, devo dire, nel senso che dormono tutti tra 6 e 8 ore a notte nel 93% dei casi, e fanno delle cose tipo alzarsi insieme anche durante le giornate di vacanza, quando potrebbero eventualmente dormire un pochettino di più. Ci sono dei begli elementi positivi sulla prima colazione: il 54% delle coppie fa la colazione insieme 7 giorni su 7, e il 64% delle coppie sempre cena insieme. Direi che la cosa importante è che nessuno è sceso sotto le 5 cene a settimana insieme, era una delle domande che avevamo posto nel questionario, quindi questo è sicuramente un buon indice del fatto che c'è una condivisione, una complicità all'interno della coppia di queste situazioni, di quelli che si sono proposti per questo questionario. Prevalenza sicura dei superiori ipermercati, nell'acquisto e degli ipermercati, anche perché lavorano in genere entrambi i componenti della coppia e quindi fanno la spesa insieme in molte situazioni e possono muoversi soprattutto su questa scelta. Ritroviamo un punto sicuramente importante visto anche nei giorni scorsi, nei questionari precedenti. Frutta e verdura sono tra i più consumati, seguiti da formaggi, pasta e alla fine i dolci. Continua questo trend strano che abbiamo visto la settimana scorsa. Non vengono acquistati al supermercato, ma sono tra i primi punti di assunzione alimentare. Un tema aperto di nuovo che si apre per tutti noi da affrontare insieme. Bene, Deborina, inquadrata la categoria sì. Dei conviventi, direi che è ora di andare a conoscere i nostri. I nostri. Andiamo. La puntata di oggi possiamo dire che vale doppio perché è dedicata alla coppia. Ma nella coppia naturalmente ci sono, il dottor Speciani l'ha tratteggiata, mi ha sottolineato dei punti in comune, ma alla fine come si fa a conciliare esigenze diverse e soprattutto come si possono sfruttare le differenze trasformandole in opportunità? Ci avete mai pensato o ci avete provato? Raccontateci le vostre esperienze, candidatevi per diventare inviati di questa puntata. Quando si è in due è più facile mettere a frutto i buoni propositi, tutti ne abbiamo esperienza, ma anche la ricerca lo dimostra. Secondo uno studio pubblicato su YAMA, un gruppo di ricercatori dell'University College di Londra ha svelato che modificare lo stile di vita è più facile se lo si fa insieme al proprio partner. Lo studio ha coinvolto 3.700 coppie che in alcuni casi avevano deciso di smettere di fumare, di iniziare a fare attività fisica o ancora di perdere peso. Mm-hmm. Tutte scelte che, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre, hanno un impatto positivo sulla salute. I risultati dello studio sono molto incoraggianti. Donna di Denari, eccomi. Dacci qualche numero nell'attesa che i nostri inviati si mettano al lavoro e quindi ci raccontino all'800 24 0024 di quella volta che sono riusciti a fare centro alleandosi con un amico, con un collega di lavoro, con il proprio partner e hanno raggiunto quell'obiettivo che da soli non avevano raggiunto. Poi racconteremo quelli che abbiamo raggiunto noi alleandoci per la coppiata di Cuore e Denari. Casualmente ho qua i numeri che tu mi chiedevi. Allora, se si cerca di smettere di fumare da soli, e a proposito ne abbiamo parlato proprio ieri con il dottor Boff in previsione della giornata mondiale senza tabacco, ci si riesce solo nell'8% dei casi, ma le donne e gli uomini che lo fanno insieme al partner ci riescono rispettivamente nel 50% dei casi e nel 48% dei casi. Buoni risultati si raggiungono anche nel caso in cui si voglia iniziare a fare attività fisica. Gli uomini che ci provano da soli ci riescono nel 26% dei casi, ma la percentuale sale al 67% quando lo fanno insieme alla propria compagna. Ottimi risultati anche per chi decide di smaltire qualche chiletto in più. Solo il 10% degli uomini riesce a smaltirli da solo perché lei cucina e fa le cose buone, contro il 26% di coloro che provano a dimagrire insieme alla partner, mentre nel caso delle donne si passa dal 15% dei successi individuali al 36% di quelli di coppia. Quindi qui torno a te, cara la mia donna di cuore, la coppia aiuta. Aiuta, la coppia aiuta e devo dire che la donna guida. Io li ho interpretati così questi dati, ma andiamo a conoscere la nostra coppia. Laura ha 29 anni, fa la disegnatrice di tessuti ed è fidanzata con Gianni, un magazziniere 35enne. Siamo fidanzati da 7 anni. Tra poco a luglio saranno 7 anni, sempre a luglio saranno 4 anni che conviviamo. L'intenzione è quella comunque sia di consolidare il rapporto, insomma, diciamo sposandoci, ecco, mettiamolo così, per la mia, questa è la mia intenzione, insomma. Siamo la coppia più bella del mondo. Perché avete deciso di partecipare al nostro programma? Ha deciso la Laura di partecipare a questo progetto. Cammino la mattina e la sera, faccio 1,5 chilometri all'andata e uno al ritorno e poi tutte le sere sono in palestra. Il mio problema è che nonostante mangio molto bene, il mio ragazzo è molto paziente, non perdo un chilo. E lei sull'alimentazione diciamo che ci tiene parecchio, infatti l'ho cambiata io stesso l'alimentazione da quando siamo andati a convivere. Nina, ho mangiato troppo e stasera non ceno. Ma se non hai toccato niente. Come niente? E farfarina all'uovo. Chi si occupa della spesa? La spesa la fa lui. Per mia scelta gli ho imposto io di farla una volta al giorno. Quello che vogliamo lo compriamo il giorno stesso, perché non mi piace sprecare cibo ed essere obbligato a mangiare la stessa cosa per due giorni. E in cucina? Sono io il primo che arriva a casa, quindi comincio a far da mangiare io, insomma. Però poi lei sparecchia. Io faccio tutto il precedente, posteriore fa tutto lei. Laura e Gianni, siete i nostri candidati per la categoria dei conviventi senza figli a Cuore Denari Expo. Cosa vi aspettate da questa esperienza? Mi aspetto delle conferme, nel senso che già tentiamo di alimentarci nel modo corretto. Mi aspetto da queste 4 settimane che il dottor Confallonieri mi dica che cosa sbaglio, perché in palestra io sto facendo tanta fatica e mangio veramente poco. Dai amore, che ce la facciamo! Se questo fosse vero amore, si sposano, lui le ha fatto praticamente una proposta in diretta. Noi ci siamo soffermate solo su quel punto in pratica. No, io mi sono soffermata intanto sul fatto che la spesa la fa lui tutti i giorni perché non vuole sprecare, quindi è una bella scelta di consapevolezza per un consumo responsabile. Però abbiamo in linea Laura e Gianni, sentiamo se sono pronti, motivati, caldi. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno Laura. Nicoletta, buongiorno a tutti. Deborah, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Comunque pensavo che rimanesse tra noi la conversazione ieri. No, non ti avevamo parlato della dematerializzazione, tanto, come dicevamo ieri, della liberatoria. Facciamo anche una puntata sui diamanti, guarda. Tieniti pronto, eh. Allora, amore, sei registrato, ormai non si può tirare indietro. Abbiamo allora, la prova, esatto. Laura. E vi preannuncio già che ci sono 3 invitati in più al vostro matrimonio e sono seduti attorno a questo tavolo qui a Radio 24. Intanto, ecco. Laura ha detto: ha evocato. Fatto e vedo poco, vado in palestra, cammino 1,5 km all'andata, 1,5 km al ritorno, però sbaglio qualcosa. Ha chiesto subito il suo aiuto, il dottor Confallonieri era qua già che gongolava. Laura, dottore, come un faro Dutur nella notte. Un faro. Buongiorno, ben ritrovati tutti, buongiorno ai nostri amici, speriamo che inizi una bella avventura da oggi. Io sono ottimista, non so se siano stati o meno fortunati a trovarmi, perché ho un approccio un po' particolare alle problematiche nutrizionali, all'abbinamento dieta, chiamiamola così, anche se è una parola che non mi piace, esercizio fisico. Però può darsi che un approccio un po' diverso, se vogliamo un po' rivoluzionario appunto, sia quello di cui hanno bisogno. Poi entriamo nel dettaglio. Allora, Laura, Gianni, avete una richiesta da fare al dottor Confallonieri? Cioè, ditevi tutto quello che dovete dirvi ora, perché poi si parte, si lavora per 4 settimane, si marcia. Laura, hai da chiedere una... Sì, l'unica cosa che magari sarebbe carino non togliere è almeno una volta ogni tanto il sushi. Lo so che c'è tanto riso e che non va bene, però... Vedi che Laura fa le domande e si dà già le risposte. Gianni, tu hai una richiesta? Ma io in realtà un dolcetto la sera, sono un abitué dei dolcetti la sera prima di spostarmi sul divano, ecco, solo quello. Ci vuole energia per trasferirsi dalla cucina, esatto, al salotto, d'altronde. Esatto. Dottor Confallonieri, anche lei magari ha una richiesta, una raccomandazione da fare alla sua coppia? No, volevo capire innanzitutto se c'è qualcosa che proprio non mangiano per scelta di vita o perché proprio non gli piace in termini di gusti, e poi se a mezzogiorno hanno la possibilità di mangiare con un minimo di tranquillità o devono improvvisare o arrangiarsi, perché questi sono 2 elementi fondamentali, perché una dieta o comunque uno schema di riferimento deve partire innanzitutto dalle abitudini di vita e dai gusti personali, certo, delle persone. Poi rispetto a quello che mi hanno detto sul sushi, problemi zero. Io inserisco praticamente il pesce crudo come tale o in forma di tartare o come sushi almeno una volta alla settimana, anche perché rivendico al Mediterraneo il fatto di essere stata la culla del pesce crudo come tradizione culturale. Mm-hmm. Quindi sono molto molto favorevole, lo troveranno già la prima, esatto, settimana. Quindi già la serata serena col pesce crudo. E farà il suo nuovo regime sono alimentare più totalmente venti in linea anche col dolcetto, in quanto comunque uno dei paradigmi della mia dieta, una delle parole chiavi è il vizio terapeutico, cioè ciascuno di noi ha bisogno di concedersi la giusta quantità di vizio, quindi se una persona ha bisogno del dolce bisogna lasciarglielo, magari si equilibrerà il resto della giornata, ma la sera deve concedersi questo vizio che è salutare per un benessere a 360 gradi. Vedi, quindi su questo una ci trasgressione siamo quotidiana. Beh, per, sì, no, sì, per rimanere in equilibrio, come mentalmente iniziano meglio questo percorso, no? Sapendo che potranno essere accontentate in queste che sono, vedi, che loro le considerano un po' le loro debolezze. Noi abbiamo i vizi terapeutici anche mi nella dieta, nello stile concetto alimentare e nella parte cuore salute. Voi avete dei vizi terapeutici della parte mi di denari? Mi sforzerò da qui al prossimo quarto d'ora nel pensarci, ma temo di no. Però. Allora, salutiamo Laura e Gianni, grazie per grazie essere stati con noi. Grazie mille, ciao. Ci vediamo sui social tutto network. E certo, bravi, ci sì troverete tutto pronto a partire dalla chiusura di questa trasmissione, ricette e quant'altro. E naturalmente il dottor Confalonieri che vi seguirà passo a passo, senza essere invadente, naturalmente, no, dottor Confalonieri? Disponibile, sono una coppia, ma non invadente. Bravo. Allora, dottor Confalonieri, Laura ha detto: faccio tanta ginnastica, però in sostanza l'ago della bilancia non scende di un millimetro, è una situazione emblematica. Eppure noi sappiamo, voi ci dite spesso, che per smuovere, no, la parte grassa, diciamo così, bisogna comunque fare attività fisica. Qualcosa non torna. Che succede a Laura e a chi? E sono sicuramente tante le persone che in questo profilo si riconoscono. Bene, cercando di essere molto sintetico, non si dimagrisce facendo esercizio fisico, punto. Si dimagrisce mangiando in modo diverso, fondamentalmente introducendo meno calorie di quelle che consumiamo. È molto semplice il problema di fondo. Quindi la chiave per dimagrire è mangiare in modo corretto, e poi magari torniamo su questo tema attraverso alcune linee guida che appunto certo mi hanno ispirato nel preparare la dieta per i nostri amici. A cosa serve l'esercizio fisico? Fondamentalmente ha tre obiettivi fondamentali. Il primo, aumenta leggermente il consumo calorico, quindi ci consente o di dimagrire leggermente o di mangiare un po' meno. Ma banalizzo il concetto, 30 minuti di corsa lenta, che è comunque un esercizio adatto al dimagramento, corrispondono circa a 2 quadrotti di cioccolato fondente, forse qualcosa meno. Quindi l'ideale è prendere il cioccolato e correre. Guardi, ma non ci si può illudere. La faccia di tempo. Non ci si può illudere che con un po' di attività fisica si dimagrisca. Sì. Secondo, l'attività fisica, se fatta regolarmente, aumenta comunque il metabolismo di base. Quindi ecco, in questo senso ci consente comunque di mangiare un po' di più e di consumare un po' di più, perché il metabolismo di base è aumentato. Posso chiedere una terzo, scusa, velocissimo. Se facciamo un certo tipo di attività fisica, ne abbiamo già parlato, quindi in particolare il lavoro intervallato 30 più 30 o il lavoro di lunga durata a bassa intensità, consumiamo come fonte energetica selettivamente grassi, e in questo senso l'attività fisica ci consente quello che dicevi prima, cioè di consumare grassi. Ecco, cerco di essere sintetico, ma di chiarire dove sta l'alimentazione e dove sta l'esercizio fisico. Quindi, cari amici, se vi ritrovate nel profilo di Laura, anche se non siete conviventi, non siete innamorati, chiamateci all'800 24 00 24, perché vogliamo raccontarvi anche lo stile alimentare che il dottor Confalonieri ha pensato e strutturato per i nostri conviventi, ma che naturalmente è indicata anche alla persona, al single, sì, no? Sì. Ecco, dottor Confalonieri, rapidamente, prima dei mercati, qual è il pensiero di fondo su cui ha costruito il suo piano? Allora, il pensiero di fondo è il concetto di dieta a diamante, cioè per me la dieta deve essere come un diamante, deve durare per tutta la vita. Questo è il concetto fondamentale. Non c'è nulla di più sbagliato di una dieta a termine, di una dieta che duri qualche mese, di una dieta per l'estate, e la conseguenza di questo è che una dieta deve essere costruita sulle abitudini di vita, sui gusti, sui vizi, sull'organizzazione delle persone per poter funzionare. Quindi deve essere ritagliata su quelle che sono le caratteristiche di una persona. Quindi questo è il primo punto fondamentale a cui mi sono ispirato. Il secondo, l'ho già accennato prima, il rapporto col cibo è un elemento fondamentale per il nostro benessere. Quindi è fondamentale che il cibo conservi il suo ruolo di compenso positivo per tutte quelle che possono essere le più difficili situazioni quotidiane, ma al contempo il cibo incide pesantemente sulla nostra corporeità, quindi sulla visione che abbiamo di noi e quindi sulla nostra autostima, che è un altro elemento fondamentale di benessere. Quindi la dieta deve trovare un equilibrio tra il benessere del momento, l'assunzione di cibo come fonte di piacere, e il benessere a lungo termine, e cioè aumentare la nostra autostima attraverso un corpo che ci che piace, ci piace un po' di più. Che ci rappresenta. Queste sono le linee guida del mio lavoro. Allora, il Confa Pensiero. Allora, sì, in linea con noi abbiamo naturalmente il compagno di Franco Confalonieri, che è Silvano Ghezzi. Ciao Silvano. Ciao. Allora Silvano, ti traghettiamo nella seconda parte di Cuore Denari. Intanto dici un po' solamente se il dottor Confalonieri ti ha messo dei paletti riguardo a condimenti, tecniche di cottura, o dopo aver condiviso l'impostazione di fondo ti ha dato carta bianca. No, no, ho avuto carta bianca e le ricette scritte sono come le realizzo qui al ristorante, perciò. Quindi Laura e Gianni faranno veramente una cucina di alto livello. No, ma possiamo ma anche anticipare semplice, ma che è anche ricca di affettati, di cosine buone, ricche di gusto. Per cui, tra l'altro, siccome è un elemento che mi ha incuriosito anche nella lista della spesa di cui parleremo tra poco, c'è veramente di tutto, infatti. Vero? Dall'affettato al formaggio, alla strudel, alla crostatina, non ha fatto mancare niente. Poi ci spiegherà come tutta questa abbondanza che Deborah descriverà anche nel carrello, sì, e quindi monetizzerà, come tutta questa abbondanza riesce nonostante tutto a non farci aumentare di peso, perché sì che ci gratifica, ma poi se accumuliamo chili non siamo poi tanto contenti. Quindi adesso andiamo a vedere se sono contenti i mercati e contentini, poi andiamo, insomma, oggi senza infamia e senza lode. A tra poco. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Cuore e Denari. Dai, usciamo a fare la spesa. Mandaranci, mele, frutti esotici. Il nostro grande mandarancio, ormai il nostro cavallo di battaglia. Ma perché è diventato il nostro? No, sì, non lo so, l'ho adottato e mandaranci, adesso ce lo portiamo avanti fino alla fine di questo reality. Molto bene. Arriviamo per la prima volta alla spesa fatta in due. Abbiamo conosciuto i simpaticissimi Laura e Gianni, li abbiamo sposati sul campo. Sembra essere lui, dai loro racconti, sembra. È lui il responsabile della spesa. La fa tutti i giorni perché dice: non faccio lo spesone, prima cosa per risparmiare, seconda cosa perché non voglio essere obbligato a mangiare quello che è in scadenza, quindi scelgo giorno per giorno. Allora, raccontateci anche voi se siete delle coppie conviventi che hanno le qualità simili a quelle di Laura e Gianni. Provate a pensare al modo in cui fate la spesa. Cercate il risparmio, andate insieme, come vi organizzate. Gianni ci ha raccontato che preferisce il supermercato perché gli è più comodo con il lavoro, che cerca qualche consiglio anche dalle clienti con qualche anno in più. Ci ha detto anche un'altra cosa interessante, che fa la spesa tutti i giorni, come vi dicevo prima, perché non vuole sprecare cibo e che sta attento anche alla qualità oltre che alle promozioni. Vi ritrovate? Parole che suonano naturalmente come musica celestiale alle orecchie di Luciano Mazzone. Bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, benvenuto. Amministratore delegato di Clicca Promo, pazzi per le offerte, che ogni settimana pianifica per noi la spesa che questi nostri candidati devono fare naturalmente per accontentare i suggerimenti e le ricette che vengono appunto date loro dai nostri coach. Ricordiamo appunto che invece Luciano Mazzone è il nostro coach di risparmio per Cuore Denari Expo. Vi ricordiamo anche che nella sezione speciale del nostro sito di Radio 24 dedicata al progetto Cuore Denari Expo trovate per ogni categoria, insieme ai consigli di salute e ai menu, anche la lista dei prezzi e della spesa. Per ogni spesa la squadra di Clicca Promo ci aiuta ad individuare il possibile risparmio. Mazzone, può sembrare una domanda banale, Però in realtà non è così. Quali differenze fra la spesa per un single e quella per una coppia o una famiglia? Cambiano inevitabilmente le quantità, le confezioni, i formati, e allora si trovano più o meno offerte? Allora, si trovano sempre offerte. Chiaramente non si ha accesso, si ha più difficile accesso alle offerte formato famiglia cosiddette. E quindi una parte di risparmio da quel punto di vista è preclusa. Prima di andare ai prezzi per la nostra coppia di conviventi, Laura e Gianni, è il momento di convocare anche i nostri ascoltatori che in questo appuntamento speciale del mercoledì vogliamo invitare a diventare inviati di Cuore e Denari, in questo caso inviati per i mercati, supermercati delle vostre città. Se ci siete stati da poco e vi ricordate un prezzo, se proprio in questo momento, magari con le cuffiette, se siete proprio degli... un po' depravati della radio che si portano addirittura le cuffiette al supermercato, ma capita anche questo. Se state andando a fare la spesa, allora oggi abbiamo scelto due prodotti: zucchine e con fiore o senza fiore? Col fiore, sai che ti dico? Facciamo proprio una scelta trasgressiva. E poi facciamo i fiori di zucca fritti. Bravo. Sì, ecco. E mozzarella di bufala. E quindi questo mi dà anche l'occasione per rilanciare la richiesta per diventare inviati della parte cuore, quindi certo, ricevere a casa il kit. Il dottor Confalonieri, naturalmente doppio, il dottor Confalonieri ha parlato di vizi, no? Di trasgressioni terapeutiche. Ed sì, quelle sono, e dato che noi ci faremo con il fiore di zucca, anche naturalmente, no? La mozzarella e filetto d'acciuga e fritto, quindi una bontà. Perfetto. Allora diteci qual è il vostro vizio o stravizio terapeutico. 800 24 00 24, e ricordatevi il prezzo di zucchine con fiore, sì, e mozzarella di bufala. Riceverete a casa la bustina con dentro la Moleskine, il berrettino, la pennuccia, insomma, quindi... inviato di Cuore Denari. Ottimo, quindi fateci questo breve reportage in diretta. Naturalmente, se volete scrivere, chiamateci anche all'800 24 00 24. Mazzone, torniamo alla nostra lista dei prezzi e delle opportunità di risparmio. Allora, se la settimana scorsa l'avete confezionata voi di Clicca Promo, per chi cercasse questo nome scritto con tutte K, partendo dal menu proposto dai coach al nostro stressato, questa volta invece abbiamo i prezzi per la coppia di conviventi. Analizziamoli insieme. Intanto, quanto si spende, quanto si riesce a risparmiare e che particolarità avete notato nella lista che abbiamo stilato tutti insieme? Ma allora, questa lista ha un valore a prezzo pieno di circa 45-46 euro. Usufruendo delle offerte si può scendere intorno ai 30 e quindi risparmiare un 35% circa, che tradotto in euro sono circa 15 euro. Tra l'altro, noi abbiamo citato zucchine e mozzarella e vedo che teoricamente sarebbero tra i prodotti che cercando tra le offerte potrebbero anche ottenere il risparmio più alto, delle offerte più vantaggiose. Assolutamente sì, superano il 40%, le zucchine si possono trovare anche a circa 1 euro al chilo, la mozzarella di bufala intorno ai 10 euro al chilo, quindi per il quantitativo da 125 grammi previsto in lista si spende circa 1 euro e 30. Allora, tra l'altro, quali altre differenze fondamentali hai notato con la lista della spesa delle scorse settimane? Perché veramente ogni settimana la facciamo cimentare con una varietà molto differenziata. Lo alleniamo, lui è un atleta. Ma viene quindi qua non sempre ha... con una fame, poverino. Però... Allora, tre differenze fondamentali. La prima è che si risparmia di più, quindi questo tipo di lista è più risparmiosa rispetto alle altre. E poi mi ha colpito che il fatto che ci siano parecchi salumi, la coppa, la pancetta, il prosciutto e salame, e invece non ci siano più i prodotti bio integrali come la pasta delle liste precedenti, c'è la pasta tradizionale. Insomma, dottor Confalonieri, ci dice qualcosa sulla qualità del medico, ecco, che ci segue. E la sua è una dieta più godereccia, mettiamola così. La dieta diamante è una dieta che riesce molto varia, che non ci fa evitare nulla. In un certo senso sì, ovviamente, perché parte dal concetto che deve essere una dieta che uno deve seguire per tutta la vita, quindi necessariamente deve essere compatibile con un'alta qualità della vita. E non si può mangiare con forti costrizioni per tutta la vita, per ovvi motivi di benessere generale. relativamente a quanto si diceva, no, la pasta integrale, il riso integrale ogni tanto li utilizzo anch'io. Nello schema dietetico c'era il pane, quelle pochissime volte che è stato concesso che è integrale, preferisco alternarli con quelli raffinati perché entrambi hanno pregi e difetti. Rispetto ai salumi, sì, erano previsti una volta alla settimana, perché nella struttura comunque della dieta che avranno i nostri amici sono previsti due pasti completamente liberi. Io ho visto Io anche ho lasciato il gnocco fritto. Esatto, li ho lasciati questi due pasti per i weekend. In uno c'è i salumi appunto col gnocco fritto, poi naturalmente c'è un compenso serale con una serata molto molto più tranquilla. Il giorno dopo, anche se non proprio in stagione, c'è l'ossobuco col risotto come piatto unico, ma comunque si consuma anche adesso, ve lo garantisco, e anche qua con una zuppa la sera. Punta sulla cucina del territorio. Io punto molto sulla cucina del territorio, sì, proprio perché mi piace che il legame con le tradizioni, perché il legame con le tradizioni ci fa trovare più pronti sia in termini di gusti, certo, sia in termini proprio di salute ad alimentarci in modo corretto. Il discorso bio è un discorso che mi convince molto poco, però lo affronteremo magari in qualche altra puntata più avanti. È per questo che mancavano i prodotti bio, ma spesso troviamo prodotti industriali più controllati, più garantiti, di qualità più alta e a prezzo più basso, semplicemente perché non hanno la targhetta bio. Diciamo che il consumo responsabile passa è un consumo responsabile anche questo. Percorsi diversi, certo. Tra l'altro, chissà in che modo si è responsabilizzato il nostro candidato della settimana scorsa, che è Riccardo, il nostro stressato, se si è un po' rasserenato, però glielo dobbiamo chiedere dopo il traffico, mi sa, che dici? Mi sembra di sì, perché okay, sono le 11:46, andiamo! Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Cuore e denari. Voglio fare un viaggio su Marte per un telegiornale spaziale. Voglio Siamo sempre a Cuore Denari Expo, ci siamo noi, ci sono i nostri esperti, ma ci sono anche i nostri inviati. 800 24 00 24, fate il nostro numero verde, entrate nello spazio di Cuore Denari, diteci a che prezzo avete trovato le zucchine e la mozzarella di bufala, ma anche qual è il vostro vizio o stravizio terapeutico. Molti ci stanno scrivendo. E se mangiate in coppia o meno. Se mangiate in coppia, quanto spendete? Adesso però noi abbiamo il nostro amico che ci sta aspettando al telefono, l'abbiamo lasciato lì, non vogliamo mica stressarlo. Riccardo, protagonista della scorsa puntata, l'abbiamo richiamato naturalmente per farci raccontare come si è cimentato in questa prima settimana di sacrificio in nome di Cuore Denari Expo, ma non credo che sia andata proprio così. Riccardo, buongiorno, vedo dai social che si è divertito molto perché ogni giorno ci pubblica delle foto meravigliose. L'ultima che ci ha colpito, Nicoletta, l'insalata di carciofi col grana sopra. Buonissima. Riccardo, benvenuto. Buongiorno, intanto. Buongiorno Nicoletta e Deborah, buongiorno. Come si sente? Esatto, volevamo fare la stessa domanda. Come Ma sta? Sicuramente non sono molto stressato, dai, è andata bene questa prima settimana. Intanto perché ho utilizzato la cucina come rito, innanzitutto, cioè il fatto di preparare con lentezza il mio pranzo, la mia cena, vedermela pronta lì e fare le fotografie. Poi il fatto che comunque voglio salutare innanzitutto Anna Maria e Pier Mario, no? I miei compagni di viaggio, il fatto comunque di essere un po' spronato, un po' come un gruppo di automutuo aiuto, mi ha dato un po' la molla per andare avanti, Riccardo, è proprio così, noi vogliamo fare rete tutti insieme, lo facciamo naturalmente con l'aiuto dei nostri esperti, ma dobbiamo motivarci reciprocamente. Infatti. Io credo che Riccardo abbia proprio sottolineato questo aspetto. Sì. Che cosa prepara oggi per pranzo, Riccardo? Ma io stavo pensando al riso integrale oggi, perché mi è piaciuto comunque utilizzare o riso o pasta integrale. Adesso devo vedere un po' con i tempi, perché le ricette che mi hanno dato non sono velocissime, quindi sì, un po' devo allora i miei un coach. Riccardo allora deve scrivere ai suoi coach e dire oi, diminuite un po', io non è che ho tutto sto tempo di stare ai fornelli o di andare a fare la spesa. Esatto, Riccardo, molta frutta secca, noi la riconosciamo sempre anche un po' come costosina, non è banale arricchire la propria dotazione culinaria con questi alimenti. Lei spende più o meno di prima per la spesa, per il suo nuovo regime alimentare? Ah, in generale spendo la stessa cifra, però diciamo che siamo più attenti alla qualità, forse è poco più alta la cifra, però la qualità innanzitutto del cibo, ma soprattutto la qualità della vita, quindi magari se uno ha mal di testa e si prende il medicinale per il mal di testa, in questo caso non lo prende più, quindi c'è anche un risparmio da questo punto di vista. Vedi, sotto altri punti, sotto altri aspetti. Che soddisfazioni, no? Che ci dà quest'uomo. Mamma mia, Riccardo, grazie. Sì, grazie. Continueremo a, monitorarlo anche a Riccardo, mandiamo la nostra bustina. Grazie Riccardo, grazie, noi teniamo duro, bocca al lupo per tutto anche lei. Allora, tra l'altro, Luciano Mazzone, ritorniamo per un secondo a Clicca Promo. I nostri protagonisti di oggi, Laura e Gianni, candidati, la coppia dei conviventi, ci parlavano della scelta di fare la spesa ogni giorno con l'idea di non sprecare. Ma così non si limitano, secondo lei, le possibilità di risparmio? Non conviene acquistare settimanalmente scegliendo quantità maggiori? Ma allora dipende, le offerte si trovano tutti i giorni, quindi andare tutti i giorni al supermercato consente di avere una panoramica ancora più ampia di offerte disponibili. Certamente non vuol dire comprare piccolissime quantità giornaliere solo per il consumo di quel giorno lì, cercare di comprare confezioni più grandi, soprattutto di prodotti non deperibili, è sicuramente una scelta vincente. Mi raccomando, per tutti i centri della grande distribuzione che monitorate, per tutti i coupon che mettete a disposizione dei vostri utenti, fate un po' una campagna per alleggerire il prezzo della frutta secca, dottor Mazzone, perché qua la cominciamo a consumare sempre di più, ma i costi sono, anche se ecco, Confalonieri mi guarda perché storto. Fa quella faccetta? No, io sono perché lui dice che non bisogna comprarne troppa, mai, non senza esagerare, assolutamente senza esagerare dal mio punto di vista, perché comunque come qualsiasi altro cibo abusato porta dei problemi e degli effetti collaterali. Però 3,50 euro o 4 euro per 100 grammi di noci o di mandorle sgusciate, io probabilmente ripulirle costa eccetera, però insomma coupon come se non ci fosse un domani. Non è facile. Abbiamo Giuseppina che ci chiama davvero? Da Modena, Attilio che ci chiama da Napoli. Ah, però Giuseppina, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccola. Eccomi, ho appena fatto la spesa, io sono sposata, quindi sono una coppia, sì, anzi una famiglia, perché ho anche una ragazza, sì, di 16 anni. Ho appena fatto la spesa e ho acquistato le zucchine a 95 centesimi al chilo e ho speso 83 centesimi. Pronto? Sì, sì, la stiamo seguendo. Un po' di sopra della media di prezzo che abbiamo noi, però... No, va bene. No, quindi mi sembra, che cosa farà con queste zucchine? Io preparerò spaghetti oggi a pranzo, spaghetti di riso e mais. Da un po' di tempo utilizziamo questo tipo di pasta. Sì. Li preparerò le zucchine con... un po' d'aglio, ma che poi toglierò durante la cottura. Giusto per profumarla e poi un solo po' di basilico e prezzemolo. A basilico e prezzemolo all'ultimo, e un goccio d'olio buono. A crudo. Andiamo a chiedere al dottor Confalonieri. Giuseppina, carboidrati a pranzo, le lancio questo assist per spiegare un po' quale sarà la distribuzione perfetto della sua è dieta. Un assist perfetto, grazie Giuseppina. Che avrà il kit, naturalmente. Interpreta molto bene quello che è uno dei paradigmi della mia dieta. Una mattinata, io non parlo mai di colazione perché l'italiano non ha l'abitudine a fare una colazione abbondante e quindi preferisco parlare di prima parte della giornata, colazione più merenda di metà mattina, in cui si devono equilibrare carboidrati e proteine, un pranzo prevalentemente a base di carboidrati, questo è il segreto, quindi pasto, riso, qualche volta alla settimana integrali e con verdura cotta, e la sera le proteine, possibilmente variando tipologia di proteine, privilegiando quelle più nobili e quelle meno ricche di grassi. Grazie al dottor Confalonieri. Sentiamo Silvano Ghezzi dopo, naturalmente, il nostro GR. Se si ferma, sentiamo anche lei, se no, il nostro GR. Arrivederci alla prossima. Grazie, grazie a tutti. denari. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna, è gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro. Allora, siete sempre in compagnia di Cuore Denari Expo. Per la nostra coppia di conviventi è giunto il momento di mettersi all'opera, di seguire i consigli dei nostri coach. Non li terremo d'occhio nel corso della settimana, per noi invece è giunto il momento di metterci al lavoro. Ma prima sentiamo il nostro cuoco Silvano Ghezzi, che abbiamo fatto un po', no, l'abbiamo cucinato a fuoco lento. Sì, esatto. Silvano, abbiamo, prima di lasciarti andare, abbiamo due richieste da farti. La prima, Deborah ha chiesto ai nostri inviati di raccontare il prezzo delle zucchine della mozzarella di bufala. Sono questi due ingredienti della puntata. Con fiore. Mozzarella con fiore. Allora, la zucchina con fiore. Sì, è vero. Silvano, trasformaceli in un piatto. Allora, per quel che riguarda le zucchine, vanno tagliate a fettine, fatte scottare leggermente in padella con un po' di olio. E poi vanno distribuite in una teglia alternandole alla mozzarella. Finita la mozzarella, l'ultimo strato di mozzarella, si mette in forno per circa 15 minuti, voilà. Si lasciano cuocere 15 minuti, si levano dal forno, si mette del basilico tritato fresco, si lasciano riposare qualche minuto e si servono ben caldi, semplice voilà. E veloce. Questa me la puoi fare anche tu la prossima volta. Direi che anche io potrei candidarmi in un attimo a farla. La Deborina si mette e mi fa un bel pranzetto. La ricetta del cuore di Silvano Ghezzi, che è il cuoco che con Franco Confalonieri seguirà la nostra coppia di conviventi prossimi alle nozze. Allora, lui la l'ha ricetta... dichiarato, eh? Sì, sì. Silvano, dimmi. Allora, la ricetta io suggerisco i mondeghili, che è una ricetta milanese classica del perché c'è abiti, un po' tutto, insomma, no? Capisci? Spogli un po' con la vero? C'è no, un po'... Ma potete tradurre per i diversamente milanesi no, questo termine? Perché vedi, c'è un po' questo abitino che è la foglia, la verza, poi dentro c'è questo ripieno. Vabbè, insomma, c'è tutta una poesia. Già detto anche prima, allora o se no? Siete scorretti. No. Non so se allora, sono quelli. No, i mondeghili no, quello è sono le polpettine? Sì, sono le polpettine. Perché si fanno innanzitutto con la carne avanzata, non so, avanza del bollito, avanza dell'arrosto, si trita tutto questo, si lega con dell'uovo e del parmigiano, si formano delle polpettine, si fanno cuocere in padella e poi si possono servire così, oppure anche abbinate a della salsa di pomodoro, piuttosto che della... Visto che ci sono le zucchine oggi, anche una crema di zucchine... Non ce la facciamo mancare, invece quello che dicevo io sono i... Quelli con la verzetta, i verzini, che è uguale, dai. Sì. Con un po', io mettevo anche. Piacciono pure questo... quelli, qua non io gli mettevo anche niente. Una vestaglietta. Va bene, grazie Silvano Ghezzi grazie per essere Silvano. Stato con noi. Buona giornata. Buon lavoro. Allora, io tanto dicevo prima, è il momento di metterci al lavoro perché è arrivato il momento di parlare del mestiere del cibo di questa settimana. Ogni settimana a quest'ora andiamo a scoprire una nuova professione legata al mondo del cibo e dell'alimentazione, come ormai gli affezionati del nostro spazio sanno bene, condividiamo questo percorso con il Sole 24 Ore Food 24 e quindi anche oggi la nostra amica e collega Fernanda Roggero è tornata a trovarci, ciao. Buongiorno a tutti. Ecco, se devo le accendiamo dire il microfono. Devo dire meglio. Anche elegantissima, certo. ti faremo ma una foto. Ma d'altronde quando viene in radio ormai si attrezza come... Guarda, come si vero, contenta, sembra vero. Uscita... da una copertina. Da una maison. Allora Fernanda, oggi finalmente peraltro una donna protagonista ai nostri microfoni di un altro video sul sito di Food 24 che già campeggia, lo vedo, raccontaci intanto come procede il progetto e ci presenti tu la nostra artigiana, lavoratrice, come vogliamo definirla? Beh, è una imprenditrice, ecco. Direi, perché anche se non è lei in primissima persona e tutta la sua famiglia, però è una nuova impresa che è nata poco più di un anno fa. È il fenomeno dei microbirrifici, parliamo di birrai, quindi lei è un mastro birraio, e i microbirrifici in Italia sono esplosi, perché è esploso il consumo di birre artigianali e quindi tutti in pratica cominciano con dei kit domestici e poi si attrezzano via via e fanno queste birre. Noi abbiamo sentito Chiara Volpi, che ha questo birrificio che si chiama Vapori di Birra, ed è in un posto molto molto molto particolare. Ve lo racconterà lei. Chiara Volpi, birraia, mastro birraio, anzi. Chiara, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Raccontaci subito qual è il luogo del mistero. Dov'è il tuo microbirrificio geotermico? Il birrificio si trova a Sasso Fisano. Sì. In un piccolo paesino dove è pieno di fumarole. E cosa sono quindi le fumarole? Sono le eruzioni naturali del vapore da sottoterra. Ho capito. E perché quello era l'ambiente favorevole per dar vita alla tua attività imprenditoriale? No, il tutto è nato perché si voleva sfruttare questa energia del sottosuolo, questa ricchezza del territorio per una cosa particolare, un po' diverso rispetto al solito teleriscaldamento quindi, o alle serre. Allora è nata l'idea di un birrificio. Un birrificio green, Fernanda. Sì, noi l'abbiamo definito birrificio geotermico. Uh-huh. Chiara, tra l'altro, quanti anni hai? Perché già dalla voce sentiamo che sei molto giovane. 27. Mamma mia, molti giovani praticano questo mestiere, c'è questa esplosione dei birrifici artigianali, come ci diceva poco fa Fernanda Ruggero. Tu, intanto anche come donna, come ti sei avvicinata ad un settore come questo? Allora, tutto è nato un po' dalla curiosità dopo la scelta di creare questo birrificio. Allora poi ci siamo avvicinati, interessati a questo mondo, conosciuto un bravissimo mastro birraio umbro che ci ha portato alla scoperta di tutto questo nuovo mondo. Certo, tu ti sei presa il tuo kit di fermentazione casalinga, ma contestualmente studi anche, se non sbaglio, per diventare ingegnere chimico, corretto? Sì. E quindi insomma molto ben inquadrata la nostra Chiara Volpi, e come diceva però Fernanda poco fa, non è l'unica, io fra un po' ve ne faccio conoscere anche un altro. Le produzioni artigianali si moltiplicano, Nicoletta, qua non ci sono più solo la bionda, la rossa, un mondo pazzesco sta diventando. Fernanda, quali sono le curiosità legate al mondo della produzione della birra? È che vengono utilizzati moltissimi aromi di tutti i generi, addirittura abbiamo scovato una birra che ha l'aroma del il profumo delle dune del deserto della Namibia. Io adesso invito a capire quale sia questo profumo, però a parte questo è miele, un po' come coriandolo. I profumi, con un profumo si fa un viaggio. Esatto. Allora, hai detto la parola miele ed è l'assist perfetto per presentarvi il prossimo mastro birraio, che è Francesco, un giovane a più o meno l'età di Chiara, consulente di Roma, che nel fine settimana si trasferisce nella proprietà di famiglia in Toscana, utilizza sempre il miele, sempre a Toscana, lì veramente. Ma è un come luogo... mai? Non sappiamo. È un caso. In centro Italia ci sono moltissimi microbirrifici, oltretutto Perugia è un luogo dove ci sono dei corsi molto buoni e sarà la prima città italiana dove ci sarà un corso universitario per i birrai. Al quale non ci possiamo più iscrivere, però no. Esatto. A proposito di lavoro, vedi quanti spunti arrivano sempre da Cuore Denari, come ci scrive un'ascoltatrice che ci fa i complimenti. Davvero? Che noi ringraziamo. Ottimo. Quindi addirittura anche un corso universitario che non è stato frequentato da Francesco, perché anche lui mi pare di ricordare sia un ingegnere. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, ci senti? Ti piace definirti mastro birraio, anche se durante la settimana tu fai dell'altro, poi è il weekend che dedichi alla produzione della tua birra. Ha un tono molto affascinante, forse un po' scherzoso, però effettivamente mi piace essere ecco. chiamato così. Allora, dicevo prima, io ho già anticipato la modalità con cui tu produci la tua birra artigianale, utilizzi il miele della mamma. Sì, il miele della mamma, perché ha preso come segno uno sciame di api selvatiche che abbiamo trovato in campagna in Toscana, era all'interno di una quercia e mia madre ha cominciato a appassionarsi, è diventata apicoltrice. E te poi come è venuta in mente? Ecco, esatto, come è venuta invece l'idea segno. Di... Esatto, intanto come ti è venuta la passione per la birra? Non so se era qualcosa che già condividevi con gli amici, perché non è che ci si inventi e una mattina uno si alza e dice compro il kit per la fermentazione domestica, non è proprio che sia automatico e immediato. 5 anni fa mia sorella mi regalò per compleanno, forse, non sapeva benissimo cosa regalarmi, mi prese un libricino sulla birra e in fondo c'era scritto: perché non provi a farla in casa? È semplice, economico. Io con un altro mio amico, eravamo entrambi studenti di ingegneria, ci siamo messi a provare, è nata una passione. L'importante è, quando si incontra una difficoltà, non abbandonare, ma studiare di più, applicarsi, segnarsi le cose. Perseverare, chiaro. Senti, certo, allora, certo. Tra l'altro tu so che ti stai cimentando anche sui processi di fermentazione con delle idee innovative. Qual è la birra di qualità prodotta da te che vorresti far provare a noi naturalmente, ma anche commercializzare in futuro? Diventerà questa la tua professione, Francesco, oppure hai intenzione comunque di mantenere il tuo lavoro tradizionale, di fare di questa attività imprenditoriale un qualcosa di secondario rispetto alla tua carriera? Beh, questo vedremo. Io sento una vocazione imprenditoriale dentro di me da anni, però vorrei anche essere realista, quindi faccio questo corso anche per vedere i numeri, per capire il mercato e non solo per buttarmi e dire vediamo come va. Per fare dei conti prima ed essere abbastanza sicuro di questo. Certo, però questo non significa che non c'è il piacere di fare queste cose, di sporcarsi le mani, come mi hai detto ieri. È una passione infinita, sì, e soprattutto riscoprire, o per certe generazioni credo come la mia, proprio lo scoprire per la prima volta la bellezza del saper fare, dell'immaginare, del creare anche sbagliando, e non dover sempre stare al supermercato a comprare qualcosa di già fatto. Francesco, grazie molto, abbiamo una qualità del collegamento molto disturbata, ma insomma il succo, lo spirito dell'iniziativa di Francesco lo abbiamo capito, così come quello di Chiara. Magari ce ne fossero di ragazzi di questa età, ma secondo me ce ne sono tanti, ricordiamocelo, perché abbiamo dei ragazzi, no? li dipingiamo sempre come ragazzi fermi in difficoltà, certo, che si lasciano abbattere, invece secondo me i ragazzi vanno avanti, sono il nostro futuro, e casi come quelli di Francesco e della Chiara. Nostra Chiara sono emblematici. Esatto. Fernando, un'ultima domanda: di che tipo di mercato stiamo parlando quando in Italia ci riferiamo a quello della birra, e poi chiaramente lanciamo l'AMO già per la prossima settimana e quale professione esploreremo? Allora, il mercato è in crescita costante, e la cosa che è interessante è che anche i colossi mondiali della birra, che sono ovviamente molto presenti in Italia, tipo Heineken, stanno seguendo il trend e quindi stanno creando a loro volta delle birre tra virgolette artigianali, o comunque con un gusto tipo quello delle birre artigianali. Invece la prossima professione sarà il forager. Sapete cos'è? Secondo te? Io no. Io neppure. Ecco. Chissà i nostri ascoltatori. Magari, non so. Comunque, il forager è il cercatore di erbe spontanee. Sarà, mi piace, anche questa volta una donna. E praticamente ci racconterà e ci insegnerà come ci si può alimentare solo con frutti, fiori, bacche, eccetera. Loro tra l'altro fanno anche cena a domicilio, per cui non so, potrebbero venire a farti il risotto di larice, i fiori canditi e via così. Ma che le frittelle con i fiori di acacia di Sambuco. Diciamo, ecco, che fa un po' a pugni con le ricette che ci ha dato prima il dottor Confalonieri, la lista della spesa, però insomma la diversificazione vale anche una cosa è certa, al supermercato non si trova. Esatto. No, al limite nei parcheggi del supermercato. Però lì abbiamo la certezza che sia sempre tutta frutta e verdura di stagione, Mazzone, forza, questo, esatto, è un tema molto caro a lei, so. Assolutamente sì, la frutta e verdura di stagione ha tre grossi vantaggi: il primo è quello che fa risparmiare perché costa notevolmente meno, il secondo è più buona, più gusto, e il terzo è che tipicamente è un prodotto nazionale, non arriva da chissà dove. Guarda, insomma, in mandarancio è finita la stagione. Sì. Deborah, salutiamo anche Fernanda, la nostra amica. Sta andando. Saluto anche Chiara Volpi, che abbiamo già appunto interpellato prima, ci ha raccontato della sua attività. Adesso come procediamo? Abbiamo anche Lisa che ci chiama da Verona, si candida come inviata di cuore. Buongiorno Elisa. Buongiorno. Lei quindi ci racconta un po' il suo vizio terapeutico? Sì. Ci vuole. Elisa, qual è il suo? Il mio è il caffè, la brioche, non tutte le mattine perché mi sento in colpa ogni tanto, però mi piace. Ovviamente in pasticceria, perché non sopporto le brioche, quelle scaldate. Quindi brava, anche se lo deve concedere, se lo concede fino in fondo. Ecco, sì. Chissà se il dottor Speciani direbbe: mangi anche due noci vicine, poi un frutto e trasgredisca ed equilibra tutto. Quello. Brava. Indice glicemico perfettamente sotto controllo. Passiamo anche alla brioche con il caffè. Esatto. Il vizio terapeutico di Luciano Mazzone qual è, oltre a quello di venire qua, cuore denari, tutte le settimane, confezionare la nostra lista lista della spesa? Ne ho talmente tanti che non parlerei di terapeutico, ma di vizio e basta. Il allora, comunque. È il momento della nostra postilla finale. Sì, il nostro editoriale / consiglio della settimana. Cuore e denari Expo. Come ogni mercoledì chiudiamo con il consiglio della settimana. In linea con noi questa volta abbiamo una persona un po' speciale. Te la voglio sempre presentare. Sempre li abbiamo speciali, ma oggi non più abbiamo speciale. Più. Non, l'altra volta abbiamo avuto Andrea Ribaldone, sì. Abbiamo puntato sulla cucina, sul brodo per, fatto con tutti gli avanzi, le bucce di mela, di lattuga, le foglie della lattuga. Adesso puntiamo invece sulle emozioni e sulle energie. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Benedetta Spada, esperta yoga e mindfulness e autrice di Yoga Dinamico, Anima Edizione. Buongiorno Benedetta, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, noi riprendiamo un po' sempre in questa pillola finale i temi dell'Expo. Tra i temi, lo sappiamo, dell'Expo è quello di, c'è quello di non sprecare, non ridurre lo spreco. Allora, noi vogliamo evitare di sprecare anche l'energia. Energia intesa come quella che mette, no, in contatto, ci mette in contatto con le altre persone, l'energia anche delle nostre emozioni. Quindi non sprechiamo magari con delle, così, del cattivo umore, magari con una scarsa attenzione nei confronti delle altre, coltiviamole. Questo è un po' il messaggio che ci vuole dare, immagino, Benedetta. Benedetta, abbiamo esatto, parlato di coppie esatto, e quindi... Esatto. Coppie non solo, diciamo, coppie di amanti, di sposi, ma anche appunto la coppia vince in tutti i sensi, dal fratello all'amico. Le ricerche dimostrano che chi sta in coppia, diciamo, cresce meglio e si fa del bene perché si supporta l'un l'altro. Quindi proprio in tema con l'idea del non spreco e soprattutto del non utilizzare emozioni negative in cucina o quantomeno quando noi ci mettiamo a preparare i pasti per noi e per gli altri, io ho una ricetta che riprende il gusto della tenerezza ed è fatta di 3 ingredienti. Andiamo. E mi approccio. Mi approccio. Abbracci, abbracci, baci, carezze, da consumarsi in questo modo, come minimo 3-4 volte al giorno, quindi diciamo almeno prima dei pasti, anche se si è soli, anche se si è in ufficio, diciamo. Quindi ci dà anche la posologia. Bravo, esatto. Questo è il minimo proprio per dire ok, anche se devo mangiarmi un panino un po' scarso in ufficio, quantomeno mi metto in questa direzione, abbraccio magari il mio collega e già quindi sto meglio, digerisco meglio. Invece 8 volte al giorno, se proprio vogliamo far crescere la serotonina a 1000 e stare benissimo, 12 proprio per vivere felici, e queste però devono essere, diciamo, insomma, in famiglia, ecco, queste 12 volte non pretendo che siano con il collega. Anche perché che il collega magari poi si fa delle strane idee. Quindi diciamo che questa posologia ci permette veramente di stare meglio e di ricordarci che al di là di quello che mangiamo è come mangiamo e come ci prepariamo a preparare quello che mangiamo. Quindi le nostre emozioni ci influenzano in ogni momento. Quando proprio non abbiamo chi abbracciare, chi baciare o chi accarezzare, o magari da chi ricevere questi baci, queste carezze e abbracci, almeno ci sediamo. La scadenza sarebbe ogni prima, diciamo, una mezz'ora prima di un pasto, e respiriamo per 5 respiri profondi prima di mangiare. 5 profondi respiri. E questo già ci aiuta. Vale quasi come un abbraccio. Esatto, vale quasi, hai detto giusto. Grazie a Benedetta Spada, grazie, grazie. Autrice di Yoga Dinamico, una terapia vinyasa, giusto? Anima Edizioni, che sentiremo presto. Guarda che adesso abbracciamo lei, eh? Mazzone, va bene, è pronto? Va benissimo. Ottimo, allora noi abbiamo terminato, ritorniamo qua domani. Posso già dire che io a malincuore settimana prossima non sarò per la nuova puntata di Cuore Denari Expo, ma vi seguo da lontano. Va bene, attenzione, noi ci contiamo. Datemi delle buone ricette. Allora adesso ti abbracciamo un po' di più, così facciamo scorta e ci portiamo avanti. Grazie a tutti, a domani, buona giornata.